E allora, quando sono le 19:54 minuti, andiamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo un collegamento telefonico. Come avrete letto, in queste ore era stata indetta una iniziativa nel pomeriggio fuori l'ambasciata israeliana, un appuntamento che è girato attraverso le reti sociali, attraverso Jasmine Revolution, che andiamo a conoscere proprio oggi, e quindi noi prenderemo alcuni minuti della nostra programmazione proprio per una presentazione. Ringrazio innanzitutto chi è dall'altra parte del telefono, buonasera, e appunto credo che abbia delle cose molto interessanti da raccontarci, innanzitutto proprio su questo gruppo che onestamente noi non conosciamo ancora, che abbiamo conosciuto tramite la rete Free Palestine, che questo pomeriggio ha aderito al presidio che, come avrete immaginato, è stato indetto in seguito a questi tre tremendi giorni di ennesimo attacco alla striscia di Gaza. E quindi buonasera a te, grazie per essere al telefono con noi e raccontaci un po' del tuo gruppo. Ciao, io sono Vincenzo, sono uno degli admin e dei fondatori di Jasmine Revolution. Noi ci è venuto in mente, quando è partita tutto il movimento in Medio Oriente, dalla Tunisia, da Mohamed Bouazizi, come tutti sappiamo, è partito quel movimento che si chiama la rivoluzione del Gelsomino, e ci siamo detti: perché anche noi in Italia non dobbiamo far parte di questo? Sicuramente noi non stiamo vivendo un presidio armato, ma un presidio di coscienza sicuramente, e quindi seguire le orme di questi giovani arabi. Quindi a un certo punto abbiamo messo su questo movimento che si chiama Jasmine Revolution Italia, che sta anche su Facebook, lo so che Facebook è una cosa, però è una maniera per sentirci tutti, e da lì siamo partiti. Dopo pochi giorni Vittorio Arrigoni ci ha contattato, ci siamo sentiti e ci ha detto: siete un potevole virus sul web, ha voluto sapere quali erano le nostre idee, e abbiamo detto cosa pensavamo, che volevamo parlare della Palestina, non ci interessava la politica, non ci interessava nulla, volevamo che il mondo sapesse quello che stava succedendo in Palestina, perché troviamo assurdo che poca gente sappia, e chi lo sa in maniera differente. Quindi da lì abbiamo creato dei contatti con i ragazzi di casa, che ci sentiamo quotidianamente. Abbiamo attraversato il muro idealmente, abbiamo provato ad entrare a Gaza quest'estate da Earth Crossing, siamo stati bloccati, ma noi vogliamo continuare ad andarci tutti gli anni per far vedere al mondo che Gaza è una prigione a cielo aperto, quindi non è vero che c'è questa libertà dove si può andare a visitare la Palestina, mentre noi vogliamo andare a visitare Gaza, e devono dire perché non la possiamo visitare Gaza, poi il resto ormai lo dicono tutti. E oggi niente, dopo che è successo tutto questo casino, sentendo i nostri amici di quello che stavano vivendo, sentendo le loro voci che continuamente sono preoccupati, proprio improvvisamente ci danno forza, e abbiamo detto: non ce la facciamo più a stare dietro un computer, vogliamo uscire. Abbiamo detto: andiamo davanti all'ambasciata israeliana, e esprimiamo il nostro dissenso. Quindi abbiamo portato uno striscione dove c'era scritto: chi uccide lascia morire non ha mai ragione. Inizialmente non hanno capito che era un presidio, quindi ci hanno lasciato passare. Dopo pochissimi minuti è arrivato un esercito, non abbiamo capito neanche la motivazione. Hanno preso i nostri nomi e serenamente ci hanno detto di stare lì per un po', poi andare via. Ci siamo attaccati i nomi delle 25 ne hanno uccisi oggi, sono salite 25 i morti, mi sembra, di quelli che sono stati uccisi in questi giorni. Ce li siamo attaccati dei fogli su di noi. Poi è stata una cosa forte. Non eravamo tanti, però vogliamo cominciare a reagire. Creare una reazione fra le persone, perché non è possibile questo silenzio, soprattutto la bugia dei media, è follia tutto questo. Assolutamente sono d'accordo con te, e noi che cerchiamo di fare informazione dal basso e con fonti dirette lo sappiamo Molto bene, siamo anche contenti di questo. Io proprio di informazione volevo anche parlare con voi, un po' perché appunto ci sono le bugie dei media che noi viviamo e subiamo, mi permetto di dire, tutti i giorni, e un po' anche perché quello che accade in Palestina, a mio parere, rischia di diventare un rumore di fondo, si rischia di abituarsi a tutto quello che avviene ormai da anni lì, per cui è una sfida veramente importante riuscire invece a mantenere l'attenzione. E quindi volevo anche un po' capire come lavorate voi dal punto di vista dell'informazione, sia dal punto di vista delle fonti e sia anche come le diffondete. Noi praticamente in questo momento stiamo lavorando con Facebook e con le email personali e a livello orale. Noi crediamo molto nella comunicazione, come hai detto tu, dal basso, fra le persone, perché ormai i media o anche gli stessi gruppi, ognuno è come se qualcuno avesse da dare quella notizia più importante dell'altra, come se anche qui nella questione palestinese ci fosse una sorta di, che ne so, delle categorie che io non capisco. Cioè, in questo momento va comunicato che a Gaza sta accadendo qualcosa di scioccante, quello stesso shock che è successo nel 48 e che a un certo punto, quando io ero piccolo e leggevo dell'olocausto, dicevo: ma se io ero lì avrei urlato. Oggi sono esattamente di fronte alla stessissima cosa e non riesco a capire come è possibile che nessuno si renda conto. Quindi la nostra idea qual è? È quella di bombardare il web, qualsiasi sia, non me ne frega che Facebook appartiene a quelli, Filo, non mi interessa che Twitter appartiene a quegli altri, a me interessa approfittare di tutto questo e comunicare le notizie, i sentimenti direttamente da Gaza. Abbiamo i nostri admin che sono a Gaza, ovviamente i nomi dei ragazzi, come potete ben immaginare, non sono dei nomi veri, perché hanno avuto grossissimi problemi da quando è partito il fronte di Jasmine Revolution. Siamo pochi, ma non abbiamo capito il perché i ragazzi, gli admin, sono stati già una volta arrestati, fermati. Quindi noi vogliamo veramente corrispondere vocalmente, far sentire alla gente quello che sta succedendo a Gaza e in Palestina, ma per strada, anche per strada, fermare gli amici al supermercato, perché veramente c'è il rischio dell'abitudine, al dolore ci si abitua. Esattamente, era proprio quello che ti stavo dicendo anch'io, ed è quindi molto importante continuare a fare informazione e continuare a fare mobilitazione. E proprio per questo tu mi ricorderai che oggi appunto c'è stata una partecipazione, ci sono state anche delle altre adesioni. Ecco, come avete vissuto un pochino questa chiamata, anche molto rapida, che però una risposta l'ha avuta? Sì, guarda, noi ieri praticamente eravamo con Skype a parlare con un nostro amico che per tutto il giorno non siamo riusciti a raggiungere. Eravamo preoccupati, eravamo tutti intorno al nostro tavolo in 10 ragazzi, perché noi abitiamo in una casa, siamo 5 o 6, però